Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort. Mi ha detto che il caso era grave. Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto? Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire. Cioè, che ha fatto? Immaginale. Che ha fatto? Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provavo pure con lui. Ci hai provato con padre Amort? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Una delle cose più ridicole che ho sentito oggi, caro Parenzo. Una giornata in cui i grillini... Ecco. Saranno molto probabilmente alcuni senatori espulsi. Mi dicono che il senatore Orellana si sarebbe dimesso. Orellana. Da senatore Orellana, ma non mi interessa la pronuncia. Orellana. Orellana, secondo me. Si sarebbe dimesso. Orellana. Si sarebbe dimesso da senatore qualche istante fa, mi raccontano. In una giornata come questa ho sentito questa mattina nel programma condotto dall'amico Gerardo Greco, detto anche Gerry, Agorà, la signora Gigliola Cinquetti. Molto bene. Gigliola Cinquetti. Dire: beh, quando ho sentito la citazione di Renzi in Parlamento sulla mia canzone, significa che si è chiuso un cerchio, perché è una cosa di sinistra. Di sinistra non ho l'età. Non ho l'età. Non ho l'età. Ma guardi, Renzi ha realizzato il sogno della mia vita, e cioè che non avere l'età sia di sinistra. Dopo 50 anni ha chiuso questo cerchio. E quindi non avere l'età è bello, ti accompagna per tutta la vita, ti costringe a un'eterna giovinezza ed è di sinistra. È di sinistra, non ho l'età? Ma che vuol dire? Allora, per carità, io non voglio essere sempre cattivo nei confronti di Renzi, perché poi ogni persona va valutata per quello che farà, no, per le promesse che fa. Certo. E per quello che è in grado di mantenere, poi ovviamente vedremo. Sono passati pochi giorni. Però oggi ha esordito con una visita in una scuola a Treviso. Ci sei? Sei sì, pronto? Sì, come no. Sei pronto, no? Sì, la frase è: la scuola è il luogo da cui ripartire. Che di per sé non vuol dire assolutamente niente. Molto. Non niente. Molto. Perché uno deve dire: allora, cosa vuoi fare con la scuola? Cosa vuoi fare? Vuoi pagare di più gli insegnanti? Per esempio, vuoi detto. Pagare di più gli questo insegnanti? Come? Dove li tiri come fuori Germania, i soldi? Dove Germania. Li tiri fuori i soldi? Vuoi cacciare qualcuno? Vuoi cacciare i fannulloni? Vuoi diminuire gli insegnanti? Ce ne sono troppi, ce ne sono pochi. Cosa vuoi fare concretamente? Non si sa ancora, non si sa. Nelle scuole ci andiamo perché è il punto di ripartenza del paese. Sappiate che noi consideriamo le scuole il luogo da cui ripartire. Vabbè, abbiamo capito che il luogo da cui ripartire sono le scuole. Però lui poi però, amico mio, aspetta un attimo. È sensibile al tema, sai perché? Ma è molto sensibile, sì, anche perché. Perché ha la moglie che è un'insegnante precaria. È sensibile, abbiamo capito che è sensibile al tema. Bene. Vabbè, già questo è importante. Ma è sensibile, però, no? Per carità, la sensibilità è importante, è importantissima. È dice, non siamo qui a fare passerelle, senti. E poi ci fa la conferenza stampa. Allora vai a scuola, vai a visitare la scuola e poi vai via. No, vai a fare la visita a scuola e poi a conferenza stampa con tutti lì. Allora vuoi fare la passerella. Ma va bene, però non dire che non vuoi fare la passerella. Le contestazioni che ho visto sono di Forza Nuova e dei Forconi. Ed è normale, noi non facciamo passerelle. Cioè, noi non è che siamo qui a tagliare nastri, noi siamo qui a parlare con il paese reale, quindi anche con chi ha qualcosa da dire e contestare. Il paese reale. Io quando sento la parola paese reale metto mano alla pistola. Cioè, quando sento uno che dice: qui è il paese reale, divento pazzo. Ma però cioè, è bello vedere almeno un politico, il Presidente del Consiglio, che comincia a girare. Tu hai iniziato con la leccata di culo a Renzi. No, io, ma sai che io sono stato Renzi. Ma no, io sono stato, ho detto, ho criticato Renzi tutti questi giorni. Però mi fai parlare di Grillo? Mi fai parlare di Grillo? Mi fai parlare di Grillo? Che alle 19 ci sarà il verdetto della rete. Com'è il verdetto della rete, Parenzo? Scusa. Il verdetto della rete, cretino, della la rete. Ma la rete cos'è, Grillo? Non scusi, cos'è? Tu. Ma io che c'entro? Faccio... Basta un computer, un click. Ma la zanzara come la faccio? Là, eh? Non esiste, è morta la zanzara. Siete morti come imitatori, come tu. Fate ridere voi della radio. Beh, adesso ridere. Radio 22, come si chiama? No, 24. 20... Ma quali 24? 24 neuroni che hai in testa, tu. Grillo dice ai dissidenti: facciano il partito coi giornali e vadano ai talk show. Bella dittatura di Grillo. Io continuo a ripetere, bravo, non capisco di cosa si stupiscano questi senatori dissidenti. Beh, per carità, io rispetto tutti, ma di cosa si stupiscono? Punto interrogativo, è sempre stato così, Grillo. Che pensavano, che ci fosse il dibattito con 4B democratico? Pensavano ci fosse... No, ci fosse la discussione come negli altri partiti. Alcuni lo vogliono. No, amico questo, mio, non c'è la discussione in quel movimento. Vi siete sbagliati. Ce l'abbiamo dentro. Se vogliono fare un partito col Corriere, la Repubblica, Libero e l'Unità, se lo facciano. E i talk show. Che vadano pure i talk show. Avranno adesso una grande trasparenza sui media, benissimo. E attraverso loro i media arriveranno forse a scalare ancora qualche posizione sulla libertà di stampa. Siamo al 70esimo e magari con loro andremo al 71esimo. La linea dura di Grillo: saremo meno ma più coesi. L'obiettivo è questo, andatevene pure. Andatevene pure. Lui è Casaleggio, rimane. Tanto i sondaggi. Due. Ma no, ma che due? Tanto i sondaggi non cambiano. Ma i sondaggi non cambiano. Adesso deciderà la rete, spero che deciderà e confermerà il verdetto dell'assemblea, così noi siamo un pochino meno, ma molto molto più coesi e molto più forti. Orellana, adesso vado a votare io. Che dice Grillo è un bugiardo. Vai a votare? Vado a votare. Vai a votare. Blog, Beppe Grillo, dice che Grillo è un bugiardo perché non è vero che vogliamo incassare i soldi interi dell'indennità da parlamentare. Che spacchiamo tu. Grillo diceva: adesso vi terrete tutti i soldi dell'indennità. Grillo, posso dirlo proprio, è un bugiardo. Perché non sono 20.000 euro. Non sa quello che dice. Sono nettamente meno. E la cosa c'è, però intanto uno che già dice una cifra sbagliata fa decadere tutto, no? Quindi è una persona bugiarda. Più tardi parleremo anche di quello che è accaduto ieri alla Zanzara. Clamorosa lite Moggi Taormina. Moggi Taormina, sveleremo tutto. Sì. Retroscena, personaggi, eccetera, più avanti, Tutta la verità. Lei pensi piuttosto a difendere i suoi clienti, Taormina. Che la Roma è indifendibile, lasci perdere Moggi, lasci perdere Cacciopoli e lasci perdere la Juventus. Io faccio quello che cazzo mi pare, scusi. Ecco, Moggi. Allora se cosa facciamo? Non li lei consigli, avvocato. Li prendo da solo. Cosa facciamo? Per cortesia. Ci vediamo in tribunale, ci vediamo in tribunale. Una persona che è stata protagonista di questa storia, adesso gliela dico in faccia, perché è una cosa intollerabile che lei possa venire a fare il moralista con me, quindi non mi rompa i coglioni. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi extra comunitari. Padania, occhio al Rom. Guarda avanti. E il portafoglio? Cosa te lo rubano? Guarda oltre i monti. Salvini non permetterà all'immigrato di rubarti. Aspetta. Salvini incazzatissimo per l'ipotesi di Chieng di nuovo viceministro o sottosegretario. Dice: siamo fritti. Lei è la protettrice dei clandestini. Secondo me è contentissimo, Secondo me è contentissimo. Protettrice, ha usato questo termine. Protettrice dei clandestini. Questo è molto brutto. Ma questa sera abbiamo qui colui che ha fatto questa canzone che ci accompagna da anni. Da anni, ed è abbastanza arrabbiato perché noi mandiamo solo questa, mentre dice che ci sono canzoni bellissime che lui ha fatto. Sergio Borsato, buonasera. Buonasera Parenzo e buonasera Cruciani. Come andiamo? Saluto prima l'altra faccia della medaglia. medaglia, parente. Vabbè, vabbè, non mi offendo, non mi offendo, Borsato. Allora, cantautore, Vicentino, quale altre canzoni belle ha fatto Borsato? Noi non Vicentino non offendiamo, io sono bassanese, veneto bassanese. E perché le dicono Vicentino? Perché dicono Vicentino allora? Sbagliano. Io sono bassanese, non Vicentino. Bassanese, vabbè. Senta, quali altre canzoni ha fatto forti che non conosciamo? Forti? Ma no, una che le piace. Prima, lei prima ha detto una cosa, Cruciani, che non è vera. Io ho detto ci sono tante altre bellissime canzoni. Ah. Non ho detto bellissime, ci sono tante altre canzoni. Poi bellissimo chiaramente è, lo dice, se lei l'ha fatta. Ma gli piacciono di più a Parenzo, che ho visto che le sa a memoria. Bella questa. Padania guarda avanti. Ma ne ha fatta un'altra sul, ad esempio dal titolo, non so, ne ha fatta una di Corri Corri Rom, ad esempio. No, no, ho fatto una canzone, no. Sui giorni dell'ira, che parla proprio del Rom. Che entrano, ma tra l'altro una canzone che è contro il buonismo. Ma lei è ma molto, scusa, ma dov'è sta canzone sui Rom? Mandiamola. Ma lei è molto no, adesso la mandiamo. Lei è molto indipendentista, Borsato, vero? Ma io sono una persona che ama la sua terra, sì. Lei è indipendentista, lei vorrebbe il Veneto addirittura libero, no? Libero da cosa, scusa? Io vorrei il Veneto libero. Veneto indipendente, il Veneto indipendente. È un sogno, attenzione, rimane un sogno, è un'opinione come magari è un'opinione, insomma. Ma è un'opinione la mia. È allora, un'ipotesi. Sai cosa ha risposto il napoletano oggi su Rete? Ha detto hypothetical questions, è la stessa cosa, sono questioni ipotetiche. Beh, ipotetiche, però lei sogna il Veneto indipendente, diciamo. Certo, la verità. Certo, indipendente, la mia terra libera, sì. Beh, libera, non è che adesso, ma lei adesso è libero, Borsato, non è che è prigioniero, abbia pazienza. No, dico la mia, di fatto ho detto la mia terra libera, non è la coercizione di Borsato che può scegliere di andare in qualsiasi paese al mondo, ok? Potrei andare a vivere anche a... Scusi, Borsato, il problema, il problema è di un popolo che bene o male produce, lavora, sta zitto e avanti. Scusi, Borsato, ma poi sono ipotesi, magari io sbaglio tutto, certo, questo non c'è dubbio. Scusi un attimo, ma andiamo al punto fondamentale per cui l'abbiamo invitata qui. Ma davvero, no, quella sempre la mettiamo sempre, dunque lei è sempre nei nostri cuori, caro Borsato. Però non ci chiede diritti, che tanto non ci abbiamo un euro, non gli diamo niente. No, ma invece li ricevo, vedete? Invece li ricevo. Come le riceve? Da chi? Da noi? Sì, da voi. Ma veramente? Io ho visto l'altro giorno, è arrivata la Sky, devo aver guadagnato attorno ai 12-13 euro sulle canzoni che lei... Cioè, ma per non mandarla più. Radio 24, quanto le diamo al mese? Quanto le diamo al mese? Più o meno 12 euro. Vabbè, si può fare, dai, 12 euro al mese. Mi pare un po' troppo. Siete brava gente. Si può fare, no? Come troppo, Parenzo? Allora, dopo... qualcun altro che è disposto a spendere molto di più. Dopo il traffico ci racconterà tutto su questo video hard presunto di Tosi insieme a Trans, Festini eccetera, su cui Tosi sembra essere stato ricattato da Report, siccome ha fatto tutto Borsato, intercettazioni, filmati consegnati al magistrato, ha denunciato Sigfrido Ranucci di Report, dunque la Gabanelli. Ci racconterà tutto tra pochi istanti. Sto lasciando casa mia per raggiungere la piazza dove il popolo riunisce il proprio cuore, dove il cielo è un po' più chiaro, dove il sole del futuro sta baciando in fronte il figlio della terra. Ragazzi, qui sta venendo giù tutto per quello che riguarda Grillo, Battista, il senatore Battista annuncia le dimissioni. Ora c'è una tattica evidentemente da parte di questi dissidenti. Cosa vogliono fare? Vogliono dimettersi prima del voto della Rete, che considerano manipolato evidentemente eccetera, o comunque scontato, per poi porre la questione delle dimissioni, perché non è che le dimissioni poi sono automatiche, bisogna siamo fare la discussione. Siamo tutti Battista, siamo con te Battista, trotskista della postmodernità, trotskista grillino. No, combatti contro il tiranno, contro i capelli di Casaleggio. Lotta dura senza paura. Lotta dura senza paura. Battista, Bocchino, Campanella, Orellana. La radio è con te 24 hours. Siamo con te. Squinzi è con te. Ma Luciani non è vero, con te. Ma non è vero. Squinzi non è affatto con i dissidenti. Chiedo scusa. Ti sei lasciato trasportare. No, chiedo scusa. Ma io non sono affatto con i dissidenti. Io guardo. Siamo con loro. Tu sei con loro. Tu sei con loro. Democrazia in 5 stars. Democrazia in 5 stelle. A casa, Grillo. A casa. Democracy now. La bandiera. Vado a svegliare. sventolare fermatelo, la bandiera. Fermatelo. Sventro la bandiera dei 5 Stelle. Freedom, freedom, freedom, freedom. Arrestatemi. Freedom, Orellana. Ma come si chiama? Grillo, Casaleggio, mandami i tuoi sicari. Ma io sono qui con loro, con Battista, con Bocchino, con Campanella, con Orellana, sono con voi. È impazzito. Che battaglia! Ma non faccia il cretino, ecco, non faccia il cretino. Lei. Ecco noi Sergio Borsato, cantautore, autore soprattutto della Padania, guarda avanti. Però Borsato, mi spieghi tutto. Allora, il signor Ranucci le ha offerto Report, Rai 3, cronista di fama, eccetera. Le ha offerto quanti soldi per avere questo presunto video che lei non ha? Video hard di Tosi, quanti soldi le ha offerto? A parte l'offrire soldi. No, ma quello è fondamentale. Quanto le ha offerto? L'offerta dei soldi di fare annunci, ipotizzando chiaramente uno sborso della Rai, quindi questo che dà un po'. Sì, ma quanto le ha offerto da parte della Rai? Lui ha specificato, mi sembra. Lui parlava di 10-15 mila euro. Ha specificato che erano soldi della Rai? L'ha specificato in più occasioni, sì. In più occasioni. Ci sono documenti, chiaramente, tra l'altro pubblici, resi pubblici. No? Sì. Non è stato fatto un copia e incolla, tantomeno montato. Che cosa ha conservato lei di altri? Non avevamo teoremi, io non avevo teoremi. No, anche perché lei non è un tosiano, non è un amico di Tosi, cioè, tra l'altro. Ma perché io sono amico di tanta gente, non sono nemmeno nemico di Tosi. No, certo. È una persona che stimo come stimo lei e Parenzo, perché ascolto le vostre trasmissioni. Lui dice, Ranucci, che era per smascherare una truffa che non ha mai pagato un informatore e che in realtà questi soldi non sarebbero mai usciti fuori. Bravo, vuol dire che racconta anche le bugie, non lo so. E perché allora ha messo in piedi tutta questa roba? Perché ha fatto nomi a prescindere da Tosi, ma lui ha fatto nomi ben più gravi, ha coinvolto il comandante del Rosso del Veneto, ha coinvolto 3 procure, e infatti noi abbiamo talmente paura che siamo andati alla procura di Verona a denunciare. Ma come li ha coinvolte queste persone? Dicendo che cosa? Dicendo appunto che lui era protetto da questa gente, e questa gente lo sta aiutando chiaramente a indagare su Tosi. E l'obiettivo finale, e ce la vedremo poi alla fine, sono le aule di tribunale, come dovrebbe essere sempre. Sì. Anche il fatto che ipoteticamente Tosi possa essere o meno, anche perché non ho capito il teorema, cioè avere quel video di Tosi trans è penalizzante nei confronti dell'amministratore Tosi. Non ho capito, vuol dire che io che sono etero sono più bravo di Tosi che... Ma lui ha detto che era il colpo, lui ha detto che era il colpo finale, questo qua ha detto il colpo finale, allora deve sparare i colpi prima, li spari in procura come ho fatto io. No, lui ha detto sparare in procura non per fare uno scoop giornalista. Lui ha detto che questa cosa qua sarebbe stato il colpo finale nei confronti di Tosi, questo video hard, questo può dire quello che ha detto, molte cose in più, e quello è il guaio. E tra ma io non l'ho capito, ma, io che sono rimasto basito, ma esiste sto video Borsato o no? Io questo non ho capito. Soggetto così, avevo le orecchie basse, quindi scusi, Parenzo chiede se questo video esiste per davvero oppure no. Esiste o no sto video? Ma se esiste un video di Flavio Tosi, può esistere un video anche di Parenzo, di Borsato, di Parenzo Borsani, non esiste, glielo giuro. La domanda è, sono venuti da me, non capisco il motivo, cioè forse perché canto pensano che sono Pinocchio, non so. Io sono un liberista a differenza di quei signori là. Per me non fa differenza, un sindaco è trans, sono problemi suoi se è trans, non lo so. Fanno loro che lo dimostreranno, io non ho in mano materiale, non ho video, non ho nulla. È che quando ho capito che c'era questo trappolone che volevano fare a un sindaco della Lega, poteva essere anche lei comunque Cruciani, io l'ho denunciato appunto. L'ho denunciato al soggetto, ho detto, visto che lo conosco, il numero di telefono, ho detto, guarda, ci sono delle persone che stanno chiedendo delle informazioni su di te, cosa facciamo? Ho detto, vediamo. Ma è vero che questo filmino sarebbe stato un modo per ricattarlo da parte dell''Ndrangheta o cose di questo tipo? Almeno quello ha raccontato. Ma chiedere alla fantasia. Ma Ranucci l'ho detto? Io vivo tutti i giorni un quotidiano, lavoro, mi ho un po' le balle, ci sono le tasse a pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Questi invece hanno il buon tempo di creare, di montare delle storie probabilmente contro quello che definiscono un nemico politico. Vabbè, ma questo qua, allora, quello l'hanno definito? Hanno argomenti, scusami, posso... No, ma Ranucci ha definito... Ho capito, ma Ranucci ha definito Tosi un nemico politico? Ma guardi, io ho anche dei messaggini che mi manda Ranucci. Che cosa c'è in questi messaggini? Me li tengo ben stretti. Che cosa c'è in questi messaggini? Io dice chiaro, l'annientamento politico del sistema è di Flavio Tosi e del sistema Tosi, punto. Cioè questo è l'obiettivo dell'inchiesta, insomma, di questa inchiesta che sta facendo? A mio avviso sì. No, ma l'ha scritto lui nei messaggini? Lo dice lui, dice, guarda che l'abbiamo in mano e l'abbiamo demolito. Addirittura c'è un passaggio, ma non solo nel messaggino. Lei si è ascoltato i video, sono lì, sono sì, no, volevo sapere nei messaggini, c'è qualche altra cosa che lei non ha... Non li ho venduti, era un bel materiale. No, certo. Io David Parenzo voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Allora, la rete ha deciso per l'espulsione dei quattro senatori dissidenti dei 5 Stelle: Francesco Campanella, Lorenzo Battista, Luis Orellana e Francesco Bocchina. Hanno partecipato 43.368 persone alle votazioni, 29.883 per l'espulsione, 13.485 contro. La rete, caro Grillo, ha deciso, vero? La rete ha deciso, cretino, mandate tutti a fare, come è evidente. Ma è evidente cosa? Hanno votato da casa. Ma hanno votato da casa, ma è tutto manipolato, dai. Ma non su. È manipolato niente, siamo qui con il computer, solo tu sei con questo microfono. Il computer, lo senti? No, credo, stiamo buttandoti fuori anche a te. Ma come si fa? Ma come ma si fa? Ma chi lo decide? Cruciani, lo volete? E la gente sente come vota. Ma lo decide Squinzi? No. Lo decide Squinzi? Ma chi è? Di chi parliamo? Ma di cosa parliamo? Ma Squinzi è capo di Confindustria. Con Casaleggio, dov'è? Gian Roberto, vieni qui, tagliati i capelli, porca puttana. Dobbiamo fare il tour, te la do io all'Europa. 45 euro a biglietto, vieni qui intanto che stiamo... Ma chi stai buttando fuori fuori mia moglie, mi ha rotto i coglioni a casa. Ma come? E chi lo decide? Web, non ha scusa. Preparato la cena. La rete, certo. Ieri sera non ha preparato la cena, sono tornato a casa, le ho tirato uno schiaffo, si è arrabbiata, mi ha cambiato la serratura e ora la sto buttando fuori con la rete. Ma come la rete? Per buttare fuori la non moglie? Non ha cucinato ieri, questa imbecille. Ma dai, su. Non ho capito, ero in giro per preparare lo spettacolo dell'Europa, torno a casa, non c'era la minestra, non c'era. E allora l'ho presa a schiaffi, si è arrabbiata, hai capito? Si è arrabbiata. E adesso la sto buttando fuori con Casaleggio. Abbiamo già fatto tutto. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il Movimento 5 Stelle si divide sull'espulsione di quattro senatori. Drammatica riunione a Palazzo Madama. In 10 pronti a dimettersi. Grillo, saremo di meno ma più uniti. Renzi a Treviso, possibile taglio IRAP di un terzo. Contro la crisi, puntare sulla scuola. Incontro col governatore Zaia. Salva Roma, 5 Stelle e Lega fanno ostruzionismo, il governo ritira il decreto in scadenza, vertice con Marino a Palazzo Chigi, venerdì il nuovo provvedimento. Dopo il voto di fiducia restano i dubbi delle minoranze del PD, c'è attesa per la nomina dei sottosegretari, domani direzione dedicata all'adesione al PSE. Squinzi, Renzi ha capito i problemi, ora i fatti, cuneo fiscale giù di 10 miliardi è il minimo, misure per la crescita o siamo condannati a strisciare. La crisi ucraina si sposta in Crimea, scontri fra filo russi e filo europei nel capoluogo, un morto e diversi feriti, Putin allerta le truppe. Femminicidio e strage, 128 donne uccise nel 2013, una ogni tre giorni, telefono rosa rivela aumenta l'età delle vittime, ma tante sono anche under 15. Abbiamo espresso grande solidarietà nei confronti di quel tassista, della sua famiglia, sì. Quel tassista che è morto purtroppo, preso a bottigliate in faccia, poi è caduto, ha sbattuto la testa da un passante, c'era stato un diverbio. Leggo su internet ogni tanto, su Twitter, delle cose incredibili. C'è una tizia, non dico il nome perché magari poi la aggrediscono, che dice: ma quello che stava tirando sotto una donna all'ottavo mese di gravidanza sulle strisce pedonali? Ma voi vi rendete conto? Cioè, qualsiasi cosa sia successa, qualsiasi infrazione o qualsiasi cosa abbia fatto questo tassista, che peraltro non ha investito nessuno, ma cosa vuole fare? Vuole giustificare la reazione di un pazzo scatenato che tira le bottigliate e che oggi ha detto quello mi ha provocato? E beh, anche se ti ha provocato? Mettiamo ti avesse provocato, anche se ti avesse preso a prolacci, cosa significa? Lo ammazzi? Gli dai una bottigliata in testa? Ma lo fanno, yeah, yeah. Ieri alla Zanzara è successo questo. Era in diretta con noi Carlo Taormina, acceso tifoso romanista, noto avvocato. A un certo punto chiama Luciano Moggi. Chi è? Luciano? Chi parla? Sono Cruciani dalla Zanzara, ciao. Mi stavo ascoltando per caso, sì. Ho sentito il solito turpiloquio che non vi piace. No, vabbè, turpiloquio in che senso? Scusa. Il solito giornalismo spazzatura. Ma in che senso, scusa? Di... Io ho la sensazione che Taormina, l'avvocato Taormina, sia piuttosto confuso. Ho letto le fesserie che sono state scritte in internet. Sarebbe ora di finirla. Sì, ha sentito Moggi? Ma innanzitutto io lo saluto Moggi perché ci conosciamo e quindi per carità nessuna... Moggi, saluto Moggi, però poi alla fine vediamo scritte che ognuno pensa, ognuno pensa quello che dice e pensa quello che ritiene e se ne assume la responsabilità. Innanzitutto ho sentito dire prima che non è cambiato niente da Moggi Agnelli, avete detto questo, e poi si parla di ladrocinio. Io sono stufo di sentire queste cose. Ma mi dispiace, io ho portato i miei progetti, la storia, adesso mi ascolti. La storia del caso lei mi ascolti. Lei mi ascolti perché adesso sono io che sono stufo. E non dobbiamo mettere la testa sotto. Lei mi lasci parlare perché questo. No, sotto la sabbia. Lei mi lasci parlare. Nel momento in cui io vedo tre arbitri che stanno là in per cruciale. Mi dispiace. Voi credete siamo morte sanste chi. Lei pensi piuttosto a difendere i suoi clienti, Taormina. Ma io lo faccio, la Roma è indifendibile, lasci perdere Moggi, lasci perdere Cacciopoli e lasci perdere la Juventus. Io faccio quello che cazzo mi pare, scusi. Ecco, Moggi. Allora se cosa facciamo? Non li consigli, non li avvocato. Li prendo da solo. Cosa facciamo? Per cortesia. Ci vediamo in tribunale, ci vediamo in tribunale. Una persona che è stata protagonista di questa storia, adesso gliela dico in faccia perché è una cosa intollerabile che lei possa venire a fare il moralista con me, quindi non mi rompa i coglioni. Bene, benissimo, allora sai che facciamo? Visto che è avvocato ci vediamo in tribunale, va ma bene? Ma ci vediamo le ragazze. Ecco, va bene, faccia avanti gli affari suoi. È una cosa insostenibile. Va bene. Sempre a Juventus, sempre oggi, basta, ci vediamo in tribunale. Buonasera, niente, buonasera. Io non ho detto assolutamente niente di lei, è lei che sta parlando di se stesso. La smetta di scrivere quelle cose in io internet. Faccio quello che mi faccio pare la oggi, faccia la persona oggi, seria, io faccio, mi oggi io faccio quello che mi pare, non prendo consigli da lei, sa qual è la differenza, le conseguenze di quello che faccio, ma faccio come voglio. Lei non si può permettere, non ha nessuna autorità morale per dire a me quello che devo fare, ha capito? Se lo metto bene in testa, sai cosa le dico? Io sono Moggi e lei è Taormina. Esatto, proprio così, finalmente la la differenza, capisci? Appunto. Questo, esatto, esatto, quello che dico anch'io. Basta, allora. Basta, mi sono stufato. Questa è spazzatura, spazzatura. Buonasera. Spazzatura pure per lei, grazie, arrivederci. Il nostro unico commento a questa cosa, Parenzo, lo sai qual è? L'unico commento che si può fare. Da no, ma è questo, senti, ti faccio sentire. Non è vero niente. Non abbiamo fatto nulla questa volta, mi assicuro, non abbiamo fatto niente. Né non abbiamo diffuso niente, comunicati... né chiamato agenzie. Ma nulla. Cioè, mie zero, come i neuroni di Grillo. Zero. Avete fatto tutto voi, io devo dire anche, devo farmi perdonare dall'avvocato Taormina perché è tutto il giorno che mi chiama e mi dice ma è vero quel Moggi, guarda, è vero. Ma guarda. E io gli dico sì, è vero, ovviamente volevo tenere la cosa coperta fino adesso, ti abbraccio fortissimo avvocato, però ragazzi... È tutto falso, è tutto falso, non c'è niente di vero, non è però Moggi. Non c'è niente di vero, ma è verosimile questo è verosimile, tema. Sì, è verosimile. Ecco, questa è la grande questione da affrontare con dei sociologi, magari, no? Con dei però professori resta il fatto che. Resta il fatto che. Non è vero niente. E dai, su. Roberto da Milano, torniamo a parlare di Grillo, mi sembra, Roberto da Milano, i dissidenti. Sì, buonasera a tutti. Niente, io non sono troppo d'accordo sul gioire, sul chiamare Freedom come ha fatto Parenzo prima, peraltro normalmente mi piace eccetera eccetera. Io credo che a livello di capi partito o capi dittatori non sia solo Grillo quello che è in questione. Beh, oggi stiamo parlando di lui, eh? Vabbè, qual è il punto? Roberto, lei è a favore dei dissidenti o di Grillo? Diciamola tutta, dai, forza. Del metodo. No, no, io sono a favore di Grillo, perché come movimento, lui l'ha sempre detto, e come movimento è molto coerente, quindi non lo vedo come dittatura, ma come coerenza di quello che è sempre stato il programma del Movimento 5 Stelle. Va bene, grazie. Maria da Cosenza, buonasera. Buonasera. Dica, dica. Allora, per me Grillo ha 6 mesi di vita politica così come Renzi. Vabbè, questa è la previsione di Maria da Cosenza. 6 mesi di vita per Grillo e per Renzi. Cara Maria, vedremo. Grillo è privo di neuroni. Renzi è soltanto ambizioso. Vabbè, andiamo avanti. Poi? Insomma. Poi? Siamo sommersi di rifiuti qui a Cosenza da oltre una settimana e non ne parla nessuno. Vabbè, poi? Seconda cosa. Terza? Basta, Stefano. Terza. A proposito di Lara Comi, che ieri ha fatto quell'affermazione riguardo la ministra in stato di gravidanza. Veramente, sì, che non può fare ministro, eccetera. Allora? Ecco, aveva altri argomenti sulla ministra. Cioè? Che mi ricordo. Secondo lei può fare ministro, ministro incinta o no? Assolutamente. E come, no, non perché incinta, assolutamente. E perché cosa? Ma secondo me non ha grandi capacità. Poi, sul campo. Va bene, grazie Maria. Quando esordì, disse, porto in Parlamento la mia inesperienza. Vabbè, quello era il 2008, magari un po' di esperienza se l'è fatta. Io ovviamente non credo che sia adatta a fare il ministro della funzione pubblica. Credo che sia uno scherzo di cattivo gusto, di molto cattivo gusto. Non è vero niente. In culina, in campagna. Un magnifico Borghezione oggi al Parlamento europeo si è fatto cacciare, cacciare al grido di viva la libertà, viva la vita, la Svizzera libera. Perché Svizzera? Ma che ne so. È già libera la Svizzera. No, l'Europa doit respecter la volonté du peuple suisse. Oui au référendum, oui à la liberté des peuples. Assez de dictature européenne sur le peuple. Assez, viva la libertà, viva il federalismo, Svizzera libera, libertà per i popoli, basta con la dittatura. Herr Kollege Borghese, ich verweise Sie aus dem Saal. In tedesco l'hanno cacciato. Bellissimo. No, ma senti, senza scomporsi minimamente, cioè portatelo via praticamente. Il tono della voce non è concitato, no? Ma è con noi Luciano Moggi. Ma è vero? Ma che ne so io, No, so quello vero questa volta. E chi lo sa? Beh, chi lo sa? Vediamo se è vero. Calciopoli! Come facciamo a sapere se sei vero, Luciano? Non lo so come fate, venite dove sono io, mi vedete. La realtà è un'altra. Qual è? È che adesso si sente bene, però ieri sera devo dirvi... Sì. Che da un ascolto accurato si capiva che non ero io. Vabbè, ho capito, da un ascolto accurato. Io sono a Roma, come faccio a sapere che sei veramente tu? È Luciano Moggi. Ve lo giuro, guardate. Giuro su che cosa? Sugli arbitri rinchiusi? Su cosa lo giuri? Su voi due lo giuro. No, è bravo! È carità! È carità! Però Luciano, dimmi la verità, quanto è bravo da 1 a 10 l'imitatore che hai sentito? Da 1 a 10, adesso al netto... Ma non male, guarda, devo dirti che 8 e mezzo ci sta. Beh, 8 e mezzo, non anche è male. Delle pause, scusami una cosa, Luciano. Quante persone ti hanno chiamato tra ieri e oggi? Lasciamo perdere, guarda. Addirittura mi hanno detto, mi hanno fatto i complimenti. Hai fatto bene a dire quello che pensi. Ma perché lo pensi veramente, no? Questo è il tema, vero? Hai fatto bene a dire quello che pensi, cioè quello che io ho detto a Taormina. Erano parole vere dette dal Moggi vero, certo. Che non è così. Ma chi te l'ha detto? Qualche tifoso juventino, qualche dirigente? Chi è che ti ha chiamato? Di tutto, dirigenti praticamente di società, tifosi. Se ti dico un centinaio di telefonate, ti dico poco. Poi ho chiuso il telefono, no? Però vabbè, lo condividi, cioè diciamo la verità, un po' era molto verosimile. A un certo punto Taormina ha detto da Moggi fino a Andrea Agnelli, alla fine non è cambiato niente. Calciopoli è sempre la stessa, la Juventus condiziona gli arbitri, sì, però ascoltate, dunque Taormina è tanto sbraita, no? Evidentemente c'ha meno da fare di prima e quindi si dedica a queste stupidaggini qui, ma d'altra parte con il momento che c'è ci si è dedicato pure un deputato, Miccoli, quindi anziché pensare all'Italia senza fare il tifoso. Quindi, ma ti faresti mai difendere da Taormina? Ma perché ti faresti mai difendere da Taormina? Ma perdere Salvini, gli avvocati ce l'ho, i miei. Non, però bravo, a prescindere da questi ragazzi, il problema di fondo è non è mica Taormina. È perché non si difende. Ah, nemmeno perché adesso si difende? Se Taormina dice che la Juventus rubava prima e rubava, come ha detto spesso, sì, con me non passerebbe, però evidentemente la Juventus non... Ma anche questa Juventus si difende poco, secondo te? Sì, dovrebbe difendersi con più forza dagli attacchi anche di questi giorni su... Mi sembra che questo qui sia un attacco bello e buono, lascia stare il fatto che è dell'imitatore, sì, eccetera. No, vabbè, certo, però voglio dire, però è anche vero, è anche vero che la Juventus del 2006, sì, è colpevole praticamente di non aver difeso i propri dipendenti, perché se, sì, il processo ordinario, sì, e il processo sportivo hanno detto che il campionato era regolare, che il sorteggio era regolare, che non c'è un colloquio esclusivo con i designatori, ma di che parliamo? No, ma tu stai dicendo una cosa, la Juve si difende poco, anche in questo frangente dove l'attaccano dicendo che c'è il rigore non dato al Torino, eccetera, eccetera, tu pensi che si difenda poco? Lascia correre, è evidentemente una tattica questa qui, per me è buona. Cioè però, con te non sarebbe successo, con te non sarebbe successo. No, non è che non sarebbe successo, è successo, vedete, in Italia, oggi Giovinco ha detto una cosa seria, è la tattica di chi non sa vincere, quella di lamentarsi, no? Allora, io dico che la Juventus è la più forte di tutti, sì, no, non ci sono problemi di sorta, avrà avuto qualche evento favorevole da parte degli arbitri, ma non è che giustifica il primo posto in classifica questo fatto qua, sì. In Italia la Juventus è praticamente domina in assoluto e tiene il passo soltanto la Roma, che effettivamente dall'arrivo di Garcia è diventato una squadra. Ma questo rigore col Torino c'era? Ma questo qui c'era, io, a me sembra che ci fosse stato, però era, non era una cosa facile da vedere, anche perché però il rigore c'era, diciamo la verità, c'era il rigore, dai. Sì, ma per me c'era, però l'errore non è neppure quello, l'errore più grosso secondo carte di Vidal. Ah beh, certo, l'errore più grosso è non, certo, avere, non avere espulso Vidal, certo, non c'è dubbio. Questo è il punto. Allora, però con ciò praticamente non significa niente. Mica c'è il complotto, mica c'è il complotto, certo, certo. Perché altrimenti succede quello che succedeva, la dimostrazione che nel passato non è successo niente e che sono errori, la sanno diventare la dare adesso. No, non c'è dubbio, tu dici come non si è difesa nel 2006 e adesso c'è il rischio, non difendendosi, di ricadere nello stesso errore, giusto? Sì, no, ma nello stesso errore sicuramente, anche perché tutti adesso, appena ci sarà qualcosa, ed è normale, gli arbitri possono sbagliare o a favore o contro, appena ci sarà qualcosa a favore succede un casino. Senti, un'ultima cosa, Luciano, ma adesso protesta anche Toir, hai visto? Dice non ci danno rigori, eccetera. Ma dovrebbero pensare a stare più in area di rigore degli avversari, questi dell'Inter. Però è vero che non gli hanno dato alcuni rigori che ci stavano, insomma. Non... Va bene. Su questo non c'è dubbio. Grazie Luciano, ciao, mi raccomando, guarda ragazzi, in gamba. Ti piace Renzi? È così che andate bene. Lucianone, Renzi. Luciano, Renzi ti piace? Ti piace? Sì, a me Renzi mi piace, non è che Renzi mi piace, le donne magari piacciono più di Renzi. Vabbè, però quello è chiaro. Voglio dire che questo qui potrebbe essere, io per esempio quando Renzi venne a fare la partita del cuore a Torino, non so se vi ricordate, ebbi modo di dirgli che probabilmente è meglio in politica che... Meglio? Non è che mi avesse impressionato granché. Però la volontà di contributo, cioè scusa, ma Luciano, lo voteresti? Una causa nobile, credo che... Ma lo voteresti adesso Renzi? Luciano? Niente, vabbè, ciao. Non mi moleste Moschi. Arrivederci. Non mi moleste Stefano da Milano, 800 24 00 24. Stefano, buonasera Cruciani. Dimmi. No, volevo solo dire che mi dispiace dirlo in un giorno come oggi di lutto e tutto quanto, ma Ma non mi meraviglia il lutto del tassista, perché onestamente... Non so ti meraviglia voi... il lutto del tassista? Che vuol dire? La morte del tassista. Ma che vuol dire non ti meraviglia la aspetta morte che del può arrivare tassista? Perché, perché potrebbe succedere veramente tantissime volte in un giorno. Cioè? Cioè? Perché è successo tantissime volte che magari c'è il semaforo verde, il tassista si ferma senza fregarsene di me o altra gente che c'è dietro in fila, fa scendere il cliente, potrebbe benissimo accostarsi e far passare le macchine... No, io suono e questo immancabilmente scende e vuol fare. Cioè, è normale. Non erano. Scusi un attimo, cioè, Stefano. Però portavi il balordo come l'hai trovato. Magari era un signore in appensione perché aveva la moglie incinta e poi succede la tragedia. Cioè, lei sta dicendo che alla fine questa morte è prevedibile e quasi non le dispiace? No. No. Sto dicendo che quando. Ma lei si rende conto? Cioè, a meno che uno non sia aggressivo, violento, e allora ci può essere una reazione però, altrettanto violenta. Mi scusi una cosa, ma lei sta dicendo che i tassisti sono sostanzialmente indisciplinati? No, non sono indisciplinati. Voglio solo dire una cosa. Provocano, però, che fanno? Provocano, che fanno? Ma se una persona di 68 anni scende dalla macchina, È normale che vai allo scontro. Ma che vuol dire normale che vai allo scontro? Gli ha tirato. Cioè, Ho capito, però anche, cioè, succede, trovi il balordo, ci sarà tragedia. Ma lei sta dicendo sostanzialmente che i tassisti provocano perché sono indisciplinati. Lei l'ha detto prima. Non sto dicendo questo, sto dicendo che è successo più una volta, più di due, che io ero fermo, ma penso che E allora? Va benissimo, possono essere, alcuni saranno anche indisciplinati e lasciano le persone in doppia fila in mezzo alla strada e lo prendi a sassaba a bottiglia di faccia. No. Sto dicendo solo che, visto che il lavoro che fanno, visto la frenesia che c'è in questo momento, dovrebbero stare in macchina. A me è capitato più di una volta, più di due, che molti tassisti scendessero. Io me ne sono stato in macchina. Ma ho capito, d'accordo, ma se... Io me ne sono stato in macchina. Se magari avevo litigato con la fidanzata, poteva succedere qualsiasi cosa, scendevo, cosa poteva succedere? Boh. E quello è il problema. Vabbè, Stefano, grazie. È capitato. Vabbè, ho capito. Enzo da Brescia. Enzo da Brescia. Vabbè. Dica. Allora... Io parlavo ancora della ripartenza e Renzi è andato alle scuole, quello che è successo oggi con il taxista. Ragazzi, se non si parte col buon senso, un po' di umiltà, non si va avanti per niente. Lo sa che non ho capito io, Enzo, che cosa ha detto. Buon senso e umiltà, ho detto che è inutile che Renzi parli della ripartenza attraverso le scuole. Beh, soprattutto perché non significa nulla poi concretamente. Cioè. Niente. Ci faccia capire quello che vuole fare sulla scuola, come la vuole riformare. Per me bisognerebbe ribaltarla come un calzino, perché è dominata, spesso è stata dominata dai sindacati. Ma lasciamo perdere, dai. Perché devi dire sì, così? Sì, ma dico, ci vuole solo il buon senso, l'umiltà. Allora, un tizio che si chiama Gabriele Omini mi scrive, Omini, non lo so, se il tassista non fosse sceso insultando ma chiedendo scusa per aver rischiato di investire moglie gravida, sarebbe ancora qui. Tu ti rendi conto o no? Va bene, ho capito. Elber da Modena. Sì, buonasera, due bastardi. Ma bastardo sarà lei, scusi. Come si permette? Tipo bene. Allora? Anche nel DNA. Ascolti, volevo parlare di Harry Potter. Harry Potter, che vuol dire Harry Potter? Harry Potter. Il Fiorentino. Harry Potter. Che c'è la bacchetta magica in mezzo alle gambe. Non ho capito, hai scusi. Capito? Non ho capito, Elber, scusi. No, come di Matteo Renzi. E che cosa vuole dire di Matteo? Un ragazzo, quella brava marmotta lì. Allora? È andato su al governo, adesso ha parlato, poi alla fine non ha detto un cazzo. No, però scusi, abbia pazienza, che ci siano troppe chiacchiere, che ci siano troppe chiacchiere, non c'è dubbio, che bisogna fare meno promesse. Chiacchiere, aspetta. Promesse inutili. Vedremo, Elber, ci sono troppe promesse. C'è un'orgia di promesse. È andato a prendere il nano dai capelli, anzi da un braccio, perché i capelli non ce l'ha neanche quale più. Nano? Ma quale nano? Il nano psicopatico. Ma di chi sta parlando? È? Berlusconi. Ma che c'entra quello? Ah, andate a prendere il senso perché lui c'ha 4 milioni. No, perché lui c'ha i 4 milioni di voti. Renzi si voleva fare una cosa giusta. Che doveva fare? Giusta. Lui doveva andare a elezioni. Ma guardi, il mandato guardi, glielo davano. Lo sta parlando con qualcuno. Con qualcuno che voleva andare a elezioni. No, oggi. Ieri, ha capito? Grazie. Eccoci qui, abbiamo Alessio Tacconi, 5 Stelle, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? onorevole. Bene, caro. Bene, mi stavo chiedendo se siete sicuri che sono quello vero. Beh, abbiamo però qualche problema anche noi. Devo dire che nessuno ci ha fatto uno scherzo del genere, ma sarebbe uno scherzo intelligente però. Cioè, noi chiamiamo qualcuno e poi in realtà sì, invece di quella persona, invece di rispondere lui, fa rispondere esatto a qualcun altro e ci fotte così. Sarebbe guardi forte. Che ha dato una buona idea a qualcuno, Tacconi, ecco, non è male. Bene, no, comunque dai, comunque ci siamo. È lei, eh? È lei. È lei, sì, eh? Onorevole, buonasera, onorevole. Lei al Senato o alla Camera? No, sono un deputato alla Camera. È un onorevole. Deputato. Allora, ma non ha detto cittadino, forse non è lui però, eh? Forse non è lui, non ha detto cittadino. Onorevole, buonasera. No, sono un deputato cittadino. Deputato ah, cittadino. Ah, ecco, no, allora è lui. Sì. Allora, Tacconi, anche lei lascia la Camera Tacconi, come no? Fanno i senatori che si sono dimessi? Ha intenzione di lasciare la Camera dei Deputati, di annunciare le dimissioni o no? Ma guardi, questi assolutamente sono dei minuti abbastanza concitati, nel senso che anch'io come voi sto sì in questi minuti ricevendo le informazioni. Noi stiamo valutando il da farsi insieme ad alcuni miei colleghi della Camera sì, per non procedere in ordine sparso, ma qualcuno insomma. Beh, qualcuno, mi dia un numero, che ne so, lei parla con quante persone, quanti potrebbero essere, diciamo, io li chiamo dissidenti così per capirci insomma, quanti potrebbero essere alla Camera? Ma guardi, non siamo in molti, al massimo saremo in 5, ma non le assicuro assolutamente niente. Ma che cosa, potreste uscire da soli dal gruppo parlamentare senza... Sì, assolutamente, stiamo sì cercando appunto di valutare per non procedere in ordine sparso. Cioè lei certo mi sta dicendo siamo in 5, possiamo uscire dal gruppo parlamentare alla Camera, giusto? Sì, assolutamente, anche perché come ho avuto modo di dire oggi, di fronte ad una votazione del genere sì fatta sul blog per alla fine nessuna colpa sostanziale, nessuna sì violazione sì di alcuna regola, è difficile rimanere all'interno del movimento, perché poi la prossima volta capiterà qualcun altro. Per cui lei sostanzialmente esce dal gruppo, diciamola tutta, insomma, esce dal gruppo. Ma sì, sostanzialmente sì. Esco dal gruppo. Non vedo la possibilità di poter restare all'interno. Insieme ad altre 5 persone, giusto? Ma questo caso. Ma guardi, adesso appunto, come dicevo prima, non vuole all'interno parlare a nome di altri, però lei esce. No, assolutamente, certo. Senta Tacconi, io voglio capire una cosa, ma non era tutto abbastanza prevedibile? Cioè, io la mia sorpresa e la mia critica che faccio sempre a quelli che non dico che vanno contro Grillo, ma insomma che si oppongono a Grillo, è che in realtà sin dall'inizio uno cioè Grillo non è che prevede il dibattito interno, la democrazia eccetera eccetera, cioè non si può prevedere un'opposizione a Grillo, per cui adesso il fatto che qualcuno si sorprende e dica no, Grillo impone la sua legge, cioè mi sorprende un po' o no? Ma guardi, il fatto è che il Movimento 5 Stelle nell'idea che tutti gli elettori e tutti gli eletti avevano di questo movimento non era Grillo, il Movimento 5 Stelle non è Grillo, secondo un'idea un po' così ingenua. Sì. È chiaro che Grillo l'ha fatto nascere, Grillo l'ha fatto crescere, eccetera. Quindi fino a qui siamo tutti d'accordo. Cioè, lei senza Grillo non sarebbe stato eletto. È vero che ha preso i voti lei perché è stato eletto all'estero. La rete, però credo che abbia preso i voti, no, Tacconi? Giusto? Ma insomma, sì, io sono eletto all'estero, quindi ho preso anche le preferenze. Però senza Grillo, diciamo la verità. Insomma, senza Grillo il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato, quindi questo è poco ma sicuro. Però nel momento in cui una persona è eletta all'interno del gruppo parlamentare della Camera o del Senato, è chiaro che fa il possibile per cercare che all'interno del gruppo, all'interno del movimento ci sia la più ampia democrazia interna possibile, la più ampia condivisione, la più ampia... E invece chi comanda? E invece abbiamo, anche con questa votazione, ci siamo resi conto un'ulteriore volta che non è possibile andare contro le idee o le posizioni di alcuni. Di alcuni che sia, di Grillo e Casaleggio? Sono in due, Grillo e Casaleggio. Sì. Ma chi comanda soprattutto, Grillo o Casaleggio, secondo lei? Questa è una bella domanda, probabilmente Casaleggio. Se è la mente, lui è il braccio, Grillo, si può dire così? O no? Ma sì, in qualche maniera sì. Senta Tacconi, io voglio dire una cosa, lei crede a queste votazioni online o sono tutte appunto manipolate? Brogli. O sono in realtà, no, Brogli non lo so, o sono tutte un po' finte? Cioè, hanno votato in 43.000, credo, no? 29.000 a favore dell'espulsione, 13.000 contro, sto dando dei numeri così, ma più o meno è questo. Ecco, lei pensa che sono tutte cose un po' preparate prima? Sono votazioni reali oppure sono un po' farlocche? Guardi, nel momento in cui la votazione è in mano alla Casaleggio Associati non dobbiamo fare altro che fidarci. È chiaro che... Ma lei non si fida però. Che vuol dire che sono in mano alla Casaleggio Associati? Dal punto di vista tecnico, dice lei. Ma nel senso che dal punto di vista tecnico le votazioni sono fatte all'interno del blog di Beppe Grillo. Cioè il server lo gestisce questo Casaleggio? Che il server con tutti i dati? Casaleggio Associati, che è la società di Casaleggio. Quindi si fa anche una banca dati pazzesca a questo Casaleggio? Ma gestisce la banca dati degli attivisti che si sono e tutti quelli che votano all'interno. E lei non si fida? Amico mio! E lei non si fida? Io non ho detto che non mi fido, io non posso fare altro che fidarmi, e certo che sarebbe più chiaro e trasparente se la votazione fosse affidata ad una terza parte. Ad una terza, non c'è dubbio. Questo perché in quel momento non avremmo più dubbi, né io, né voi, né tutti gli altri. Ma... nel momento in cui questa votazione è fatta in questa maniera, dobbiamo solo fidarci. Questo interessante. Lei dice anche la base, quando Grillo dice sono stati sfiduciati dalla base. Alcuni dei senatori, alcuni deputati, secondo lei lì c'è una manipolazione da parte degli uomini di Casaleggio, così dicono da parte... Ma guardi, così dicono, però il punto principale è questo, che il Movimento 5 Stelle sia a Pavia, da dove viene Orellana per esempio, sia in Friuli Venezia Giulia, da dove viene Battista, sia in Sicilia, da dove vengono gli altri due senatori, ha preso migliaia e migliaia di voti, decine di migliaia di voti. Nel momento in cui una sfiducia viene da 10, 20, 30 persone, per quanto queste persone sono attivisti del Meetup, capisce che la proporzione non è assolutamente fanno bene a dimettersi dal Senato, anche perché poi ci sarà una discussione e probabilmente verranno respinte le dimissioni, perché ovviamente non decidono solo quelli dei 5 Stelle. Ma guardi, come scelta e come messaggio, come segnale, sì. Lo farà anche lei? Le ripeto, le stiamo valutando che cosa, come comportarci. Comunque già ci ha detto che esce comunque dal gruppo. Assolutamente. Un attimo, non va solo nel PD, no? Quindi avete anche uno scoop questa sera? No, vabbè, ogni tanto, non siamo abituati, Tacconi, come sa. No, non con voi, per altre cose. No, assolutamente, certo. Un attimo solo, dopo la pubblicità poi torno con lei, perché c'è una cosa che le voglio chiedere a proposito del rapporto con Renzi, il Partito Democratico. So che lei è molto coerente su questo, non credo che abbia votato la fiducia, no? Non ha votato la fiducia? No, assolutamente. Sarebbe già stato cacciato, sarebbe stato già cacciato con le camionette, insomma, con i cacciaturpedinieri, insomma. Ma senta, io ho votato come tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, su questo non c'è nessun dubbio. Ora, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Che gira, che ronza. Beh, detto da Brunetta. Siamo qui 800 24 00 24, con Alessio Tacconi, Movimento 5 Stelle, deputato, in una giornata drammatica. Drammatica per il Movimento 5 Stelle, in cui si parla addirittura di una... di fascismo, alcuni dicono tra le lacrime, come... Ma guardi, ci sono alcune cose che succedono che sono abbastanza preoccupanti. Cioè il fatto che non si possa dissentire nemmeno sul comportamento di Grillo durante lo streaming, che poi tutto si riduce a quello, poi quella è stata la goccia, no? Lei come lo definisce? Un atteggiamento fascista? Come lo definisce? Ma guardi, fascista è una parola pesante. Certo è che, come ho detto prima, ci aspettavamo di entrare in un movimento molto più democratico. Abbiamo sempre detto uno vale uno, ma probabilmente uno vale più degli altri. Due valgono più degli altri. Due valgono più degli altri, e poi tutti gli altri uno vale l'altro, diciamo così. Insomma, quindi è un po' questa la situazione. Vi posso però vi posso dare un retroscena. Sì. Durante la pubblicità mi ha scritto un messaggio un mio collega di Forza Italia, e mi ha scritto chiedendomi di nel caso in cui me l'aveste chiesto di dire che preferivo Forza Italia al PD, quindi questo vuol dire che siete ascoltati comunque in maniera piuttosto massiccia. No, ma questo qua è una sorta di circonvece, stava cercando di... No? Lei preferisce Forza Italia al PD? Ma no, non credo. Ma preferisce davvero Forza Italia al PD? Ma chi è questo? Riveli chi è adesso, trasparenza. Cioè è più coerente Forza Italia nei confronti del PD, secondo lei? No, io non esprimo giudizi, soprattutto in questi termini. Ma lei ha qualche speranza nei confronti di Renzi o no? Ma guardi, è la speranza che hanno tutti gli italiani. È chiaro che io non ho mai votato PD, quindi resto a guardare. Resto a guardare quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La situazione italiana la conosciamo tutti, quindi... Cosa ha sbagliato Grillo, secondo lei, nello streaming con Renzi? Ma guardi, io avrei fatto parlare Renzi, gli avrei chiesto quali sono i suoi programmi nei prossimi mesi che vuole attuare, gli avrei chiesto anche le tempistiche con cui lui vuole attuare questi programmi, e poi gli avrei, oltre naturalmente ad aver... a proporre i punti del Movimento 5 Stelle, nelle prossime settimane e mesi gli avrei sempre e comunque ricordato quali sono stati gli impegni e quali erano le tempistiche, così nel momento in cui lui non era in linea... C'è stata troppa aggressività, secondo lei? Ma che cosa aveva Grillo quel giorno, secondo lei? Era un po'... Ma io non lo so, perché non l'ho incontrato quel giorno, probabilmente non aveva nessuna intenzione di aprire un dialogo, e quindi a quel punto ha preferito parlare lui invece che sentire. Senta, lei si terrà tutto lo stipendio quando esce dal gruppo? Ma no, io farò come ho fatto finora. Guardi, i soldi dal primo giorno in cui siamo qua non sono mai stati un problema. Lei però ha detto che in Svizzera non si riesce a campare con 5.000 euro lordi, questo l'ha detto, chiaramente. Ma guardi, questo è vero, infatti io, se vede, sto cercando di restituire la cifra che riesco, il massimo. Cioè, lei una parte dell'indennità l'ha tenuta, al contrario di altri, perché dici altrimenti in Svizzera non posso campare, giusto? Sì, è vero, assolutamente. Quanto si è tenuto fino adesso? Scusi, per sapere, no, per una cosa di trasparenza, quanto si è tenuto fino adesso, in tutto? Oddio, guardi, non... Che ne so, da un anno a questa parte, quanto si sarà tenuto? 1.000 euro al mese, che ne so, 20.000 euro, 30.000 euro, quanto si sarà tenuto? Ma in saranno più? 2.000 euro, saranno 2.000 euro al mese. 2.000 euro al mese, dunque per 12 faranno, sì, beh, più o meno 25.000 euro. Più o meno. No, per campare. Ma perché non riesce proprio con 5.000 lordi? È impossibile lavorare... Ma guardi, io le dico una cosa, l'anno scorso una delle statistiche in Svizzera diceva che la soglia di povertà era attorno ai 2.500 euro. E allora? Quindi, no, voglio dire... Cioè, con 2.500 euro in Svizzera c'è la soglia di povertà, ma lei in realtà sta 5 giorni a Roma, beh, che c'ha la famiglia lì e tutto. No, assolutamente, io vivo lì, c'ho la famiglia, c'ho la macchina, c'ho le tasse, c'ho l'appartamento, l'affitto dell'appartamento, quindi voglio dire, sono spese comunque normali, di una famiglia normale, che però non possono essere affrontate con uno stipendio... Poi lei le tasse... le paga su tutto lo stipendio netto che prende, tra l'altro. Assolutamente sì, pago, certo, assolutamente, qui in Italia, quindi le tasse le pago in Italia. Scusi un attimo, no, lei adesso esce dal gruppo e torna a prendere però uno stipendio pieno, oppure resta sempre con i 5.000 euro? Perché questo è interessante, d'accordo, sia sincero su questo, perché lei è trasparente. Ci deve pensare, secondo me. No, guardi, io la mia intenzione è quella di continuare come ho fatto fino a questo momento, quindi nel momento in cui non avrò la necessità di spendere tutto lo stipendio, io lo potrò restituire. Cioè, lei continuerà a dare a chi, però, a questo punto? Una parte dello stipendio a chi? Questa è una bella domanda, mi ci lasci pensare un attimo, perché effettivamente vorrei aiutare più concretamente... delle associazioni o persone che ne hanno bisogno, quindi però non esclude il fatto di tenere un'altra parte dello stipendio, non lo esclude? Volevo sapere questo, è vero, Tacconi, che non avete mai versato voi come deputati una piccola quota alla Casaleggio Associati per, come dire, la gestione dell'infrastruttura di internet? Questo è vero, mai. Non ma dove l'hai letta sta cosa? No, ho chiesto solo, calma, no, mai, no, vero? Non mai, vabbè. Non so da dove è uscita fuori questa cosa. Chiedo. Senta, però, tornando al voto di oggi, all'espulsione, no? All'espulsione dei 5 senatori che poi, 4 senatori che poi hanno annunciato le loro dimissioni, lei come atto, come lo definisce? Un atto autoritario, un atto... Una purga. Mi dia una definizione di quello che è successo. Sì, è una purga, sì. Una purga. Purga casaleggiana. Come le purghe staliniste. Eh beh. Beh, insomma, vabbè, poi non esageriamo, ci sono... Beh, certo, quelle a fini viale... Ci sono poi delle differenze di cui non dobbiamo passare sopra, però effettivamente, voglio dire, è veramente un'epurazione interna, sì, di persone che l'unica colpa che hanno avuto è quella di aver espresso delle opinioni che erano in leggera... leggermente diverse, diciamo così, da quelle che erano le linee ufficiali del movimento, del blog e quindi di Grillo. Quanti voti ha preso lei alle elezioni? Io ho preso 12.500 preferenze. Che è uno dei pochi. Per esempio Campanella, la rete lo candidò con 81 voti e adesso lo espelle con 29.883. Questa è curiosa, questa cosa qua. Va bene Tacconi, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Alberto da Milano, buonasera. Alberto? Alberto? Niente. Stefano da Roma. Ciao. Ciao, dimmi. Finalmente riesco a parlarti. Allora, io avevo chiamato, sono tassista, avevo chiamato per Renzi e per Grillo. Allora, però voglio rispondere a quegli imbecilli che hanno parlato prima e a tutti l'altri come loro. Cioè? Allora, su riguardo al tassista assassinato, ucciso. Allora, per quello che ha fatto il gesto, non ma lei fa il tassista? Perché... Lei fa il tassista? Sì, sono tassista, sì. Abbiamo già parlato altre volte. Sì. Allora, per quello che ha fatto il gesto, non mi pronuncio perché... No, vabbè. Allora, questi cretini che parlano invece in questa maniera... Cioè di provocazioni, di tassisti che sono indisciplinati, allora, che fanno venire il sangue e il cervello alla gente, sì, eccetera, come eccetera. Come ha detto te giustamente, in mezzo a noi ci stanno gli indisciplinati come ci stanno... Vabbè, è normale, come ci stanno in tutte le categorie indisciplinati, sì, e te. Però direi a questi cretini di guidare loro 9 ore al giorno nel traffico, nel traffico poi di Roma, Milano, quello che sia, e per quanto tu possa cercare di fare attenzione a non fare infrazioni, c'hai molte più possibilità di chi... Ma questo, guarda, Stefano, no? Con me sfondi una porta aperta, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, il punto è un altro. Come ci si può permettere di dire, a parte che ci sono i video, sì, i video, come ci si può permettere di dire che in fondo, beh, quello se l'è cercata? Se l'è cercata, e poi che sono degli imbecilli, sono quegli stessi imbecilli che poi nel traffico, in macchina o in moto, scrivono i messaggini o fanno di peggio, solo che gli dice bene. Però c'è un altro discorso, che grazie anche a qualche giornale noi comunque siamo una categoria odiata. Vabbè, adesso parte. Questo non è vero, dai, su. No, avete anche i vostri appoggi, avete anche i vostri appoggi, dai. Se fosse capitato a te o a un altro di fare quell'infrazione, te saresti beccato un vaffanculo e basta. Ma quello è normale. Una macchina, ma certo. Però niente di più, ma certo. Invece il tassinaro, io vedo, quando pure mi fermo sulle strisce, però gli arrivo vicino perché te se buttano sulle strisce, te mandano a fanculo, pure quando te vedi. Guarda, io ho visto, io devo dire la verità, non perché voglio lisciare il pelo ai tassisti, però vi assicuro che in generale gli automobilisti in tutte le città, Milano, Roma, almeno quelle dove io sto di più, sono molto più indisciplinati dei tassisti. Io ho tassisti indisciplinati, sì, che fanno infrazioni, sì, eccetera, sì, vero, francamente ne vedo vero. Molto, molto vero. Pochi. Che carogna che siete, vabbè. Soprocio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprocio e me. Chi in questo momento è in macchina con bambini minori, beh, faccia attenzione. Quello che vi proponiamo adesso è un documento incredibile. Vero, un documento vero, un documento vero, no. Documento vero, incredibile, che testimonia come la follia si sia impadronita dell'Uganda, paese dove è stata approvata una legge l'altro giorno terrificante nei confronti degli omosessuali, che prevede fino all'ergastolo, si parte da 14 anni di galera, si condanna anche chi dà assistenza ai malati di HIV, eccetera, eccetera, chi fa propaganda omosessuale. Hanno pubblicato su un giornale per ordine del governo le foto di 200 omosessuali mettendoli alla berlina, eccetera, eccetera. Allora, questo documento è una specie di comizio da parte di un pastore cristiano, Martin Sempa, uno degli ideologi delle nuove leggi contro i gay dell'Uganda. È un documento particolarmente crudo, che ha oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, che vi invito ad andare a vedere su YouTube in originale, ma che noi vi proponiamo con una traduzione letterale, e vi assicuro che non è una cosa volgare, non è una cosa non è una roba che ha a che fare con la volgarità, cioè è terrificante, ma è vero, cioè è l'origine di tutto ed è la dimostrazione di come la follia, io dico, sia impadronita di un paese africano. Certo. E bisognerebbe che le associazioni degli omosessuali, eccetera, che si battono giustamente contro Putin, si impegnassero di più anche sull'Uganda. Martin Sempa, sentite. We are making legislation to make sure that sodomia. Stiamo facendo una legge per assicurarci che sodomia e omosessualità non veda mai la luce. In this land of the Pearl of Africa. In queste terre d'Africa. Stiamo facendo una legge per assicurarci che sodomia e omosessualità non veda mai la luce della legalità in questa terra d'Africa. Ha iniziato in questo modo. Prosegue così. Sentite, fa vedere delle immagini in un computer. I've taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. Cosa fanno gli omosessuali a letto nella loro vita privata? Una delle cose che fanno è chiamata anus leaking, dove l'ano di un uomo viene leccato in questo modo dall'altra persona, come un gelato. E poi succede che la cacca viene fuori e poi mangiano la cacca. And then they eat the poo-poo. E che dovresta senza in assoluta castica. Eat the poo-poo. Dice lui che l'avrebbero scovato su quel librone. L'altra pratica, sentiamo ancora sempre. Sempre secondo questo predicatore. The other one they do is they have a sex practice called fisting. Where they insert. L'altra pratica si chiama fisting. Inseriscono la loro mano dentro tutto l'ano dell'altro ed è così doloroso che devono prendere droghe, ma gli piace. Drugs, but they enjoy it. They enjoy it. Che lo fanno non lo vanno a sapere perché gli crea problemi. Poi senti ancora questa. Now if we have any children please step out. Se c'è qualche bambino esca. This is what they do. Ho fatto una ricerca, questo è quello che fanno gli omosessuali. Qui vedete un uomo che succhia il retto di un'altra persona e questa caga e il primo mangia la cacca. And this one is eating the poop all over the place. Huh? Tell me, when you have a law against homosexuality, do you say except eating poop? La colpa dove sta? Possiamo accettare che si possa mangiare la cacca? Non è un vizio. Guardate che è tutto vero. È uno dei teologi, degli ideologi di questa legge in Uganda. Vergogna! Esattamente cosa sia. Secondo me è un istinto del tutto naturale. Hey, I mean, look at this guy, sincerely. Bishop. Stagafulizer. Guardate questo ragazzo come urla. Non vogliamo questa malattia. This is sick and it's questo è vomito, deviante. È deviante. Non lo vogliamo. Un culo invertito. Tutto il repertorio lo conosco a menadito. Tante ne ho sentite già durante la mia vita. They start off by touching each other's genitals and smelling each other. Iniziano toccandosi i genitali, odorandosi, poi uno caga su tutta la faccia dell'altro e come se questo non fosse abbastanza gli infila la mano a fondo. E tutta la gente intorno che dice no, no! Conclusione, l'attacco a Barack Obama. As Africans, we want to ask Barack Obama to explain to us. Is this what he wants to bring to Africa? Noi vogliamo che Barack Obama ci spieghi se questo è quello che vuole portare in Africa. Il diritto di mangiare la cacca dei nostri figli? Zanzare, quello di è una cosa indegna la sua trasmissione. Ma indegno sarà quel pastore, quel prete in Uganda che dice quelle cose, non io. Dai, su, che schifo. Vergogna. Mauro da Vicenza. Muoviti. Mauro? Chi è? Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Ma con chi, ciao. Chi era prima? Sua moglie, chi era? No, sono in macchina, sono andato a lavorare. Allora? Stupendo quello ugandese, ma come stupendo? Di che cazzo ti stupisce quando c'è Giovanardi, Previte e Gasparri in Italia? Io non riesco veramente no, a capire. Guardi, al confronto in casa che dicono cose no, al confronto Giovanardi, al confronto Giovanardi. Quello è vergognoso, ma Giovanardi e sta gente qua sono in un paese. Ma non diciamo stupidaggini, dai, su, non diciamo stupidaggini, dai. Se Giovanardi fosse lì in Uganda e avesse il potere di poter dire quelle stronzate che ma dice, no, ma il confronto è un'educanda, dai, su, smettila. Ma secondo te il presidente dell'Uganda dice delle cose così perché pensa che siano così o soltanto perché deve farsi pubblicità come fanno Giovanardi e Gasparri? No, ho capito, ma lasci perdere. Non, è, non siamo a questo livello. Questi sono dei pazzi. Questi sono dei pazzi. Questi sono gli ignoranti dicendo cazzate. Questi sanno benissimo cosa dicono. Vabbè, Mauro, di che voleva parlare? Solo di questo? Ah, no, io volevo parlare del tassista e della Madia. Allora? Secondo me stiamo perdendo un po' troppo tempo, insomma, che capita che la gente litiga, insomma, se io cammino con mia moglie... Ho capito, ma non è che capita uno che viene ammazzato, preso a bottigliate, che sbatte la testa e muore, scusi, non è la stessa cosa. I litigi ci sono per strada, come è noto, ma è una cosa grave o no? Oppure lei pensa che se l'è cercata il tassista? È una cosa grave, ma in fin dei conti, cioè, se il tassista fa una cretinata, esce dalla macchina insultando e questo qua con una donna incinta a fianco reagisce... Io non mi stupisco, non lo giustifico, ma non mi stupisco. Vabbè, ma se lei dice non si stupisce, ma ho capito, ma anche se uno insulta, merita una bottigliata in testa? Ma non se lo meritava, ma di cosa stai parlando? È una notizia secondo te? Ma come non è notizia? Certo. Ma come non è notizia? È una notizia importante di fronte a tutto quello che c'è. Vabbè, ma che vuol dire una notizia importante? Mauro, su, non diciamo subito. Non è che è importante solamente quello che... Ma questi bambini muoiono ogni giorno per malattie curabili. Ma che c'entra? Ma cosa vuol dire? Ma chi se ne frega? Vabbè. Se questo qua ha fatto una cretinata, l'altro ne ha fatta una peggio, basta. Ma dobbiamo perdere trasmissioni intere per queste stronzate. No, guardi, i due non sono sullo stesso piano, innanzitutto il tassista e quello che ha dato la bottigliata in testa non sono sullo stesso piano, invece no, secondo lei sì. Ovviamente chi fa violenza è su un piano. Vabbè, diverso. Poi sulla Madia, ma che voleva dire? Che capitano ogni giorno. Sulla Madia, sulla che Madia voleva... volevo dire, Giuseppe Parenzo, voi avete figli? Sì, certo. Abbiamo figli, certo. Avete figli? Sì, lui due e uno, allora? Ma io ti ho sentito in questi giorni dire che effettivamente si può fare il ministro avendo anche dei figli. Certo, è normale. Io ne ho due. E francamente, a vedere tutti i cretini che girano per strada, penso come mai... No, guardi, la Madia è attaccabile su mille fronti, ma non sul fatto che... No, ti voglio fare un discorso diverso. Ma tutti sti ragazzetti che forse vengono affidati alla televisione, alle stronzate, invece di stare con la mamma tutto il giorno e magari imparare delle cose. Ma secondo me, una che deve partorire deve pensare a suo figlio. Le generazioni che stanno venendo su, ma sono, scusi, ma lasci, ma ognuno deciderà cosa fare, no? Perché sono costrette a lavorare, no, però per scusi, lasci decidere alla signora Madia come organizzare la sua vita. Cioè, non... Ah sì, ma la signora Madia si deve occupare anche di noi. È questo che mi preoccupa. Ma ho capito. La signora Madia deve occuparsi di noi e invece dovrebbe occuparsi di suo figlio, perché non voglio un altro idiota che cresce perché sta davanti alla televisione invece che sua madre. Ma sta a lei che cosa gliene frega? A lei di come a fa, di come cresce il figlio ministro, della signora Madia? E beh, che c'entra? Io vorrei parlare delle competenze o delle non competenze, ma questo, cioè, è davanti a tutti che non abbia competenze. Insomma, una che dice questo è un altro per discorso. Giorno dovrebbe essere presa a calci nel culo subito, insomma. Vabbè, ma non capisco perché c'è questo odio. Guarda, una che dite vedrò giorno per giorno deve essere presa nel calci e nel culo. No, però e scusi, ma non lasci perdere. Guardi, ma... uno può dire che è incompetente, ma non la può attaccare perché è incinta. Questo secondo me è un... Ma oggi non si può dire che è incompetente quando non ha fatto, beh, certo, un atto, amico come mio, si fa a dire il Ministero della Funzione Pubblica non è che è una perché, roba da... Perché Brunetta era competente. Beh, certo, se più competente. Brunetta era più competente della Madia sicuro. Brunetta, dai. Era competente. Ma dai, su, non scherziamo. Ma era come ragazzi. Dico, è un economista, non d'accordo. Scherziamo, dai, non scherziamo. Ma questa non è, fa politica da un po', non è non che è nata l'altro. Non devono... scherziamo. No, scusami, non però, scherziamo. Scusa, è veramente sessista e razzista. No, ma mica perché è una donna, sto dicendo. Brunetta, siccome è un grande economista. Ma, dai, ma c'è un'altra roba, dai, ma è un'altra roba. È un'altra, dai, roba, ma non è, l'abbiamo vista all'opera, signora Madia. Tant'è che era, simpatica, ma tant'è che era in corsa per fare il ministero delle pari opportunità. E all'ultimo è stato girato. Dai, su. Però spesso in politica c'è questa giravoltola di ministeri. Per cui se viene nominato un politico in un luogo, in una vabbè, funzione, no, ma allora scusa, per questo per quel ministero essere... lì, per quel ministero, scusami, lì, secondo però, me ci vogliono altri profili. Però un attimo solo, un attimo allora solo. Ci vogliono tecnici. No, ma un altro profilo. Basta, ho detto solo questo. Oh, è con noi Chiara Geloni, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, grazie, voi? Beh, avanti, tiriamo. Combattiamo, guardi, abbiamo un sacco di guai, un sacco di guai. Ah, signora mia, guarda. Ne combiniamo, ma ne abbiamo pure di guai. Per ma carità. Che fa oggi la signora Geloni? Non lo so, non è più direttore di Udem. Come no, campa lei? Scusi, sappiamo, se le faccio questa domanda un po' irriverente. Ho il sussidio, come Bukowski. Beh, fantastico. Il sussidio di disoccupazione. Ah, per cui lei non è un dipendente del Partito Democratico? No. Beh, questo non è buono, però questo è buono. No, non è... Era un dirigente, cambia, come tale. Si cambia. Ma lei che vuole fare nella vita dopo avere... Da grande, che vuole fare? Io sono una giornalista. Vuole continuare a fare la giornalista? Sì. Ma la politica ha finito? Cioè, poi si fa sempre politica. La politica la fanno anche i giornalisti e si può fare anche facendo il giornalista. Beh, tu, io ogni tanto abbiamo avuto delle discussioni, diciamo, da lontano con la signora Geloni, sì, su qualche cosa, però devo dire la verità, è una di quelle che alla fine non si è candidata. Questa cosa l'ho sempre apprezzata. Quando, cioè, poteva entrare in carrozza con Bersani in Parlamento, proprio con la carrozza alata, diciamo la verità, questa è la realtà, signora Geloni, o no? Perché? Chi ti ha detto che io potevo? Ma sì, dai, si diceva, ma insomma, sì, era chiaro, no? Se lo avessi chiesto, sì, perché ci diamo del tu nella vita reale, quindi diamo, sì, se lo avessi siamo anche colleghi. Se lo avessi chiesto, saresti entrato, dai, su, questo diciamo. Non lo sai. Comunque non l'ho chiesto, effettivamente. Non l'hai chiesto e sei rimasta, come dire, poi a un punto sei rimasta un po' fregata, perché se una cosa è stare in Parlamento, una cosa è stare no, con sussidi di disoccupazione. Vabbè, ma anche ce ne frega, non ci occupiamo di questo. Va bene così, grazie. Ma l'avresti votata la fiducia a Renzi se fossi stato in Parlamento? Dimmi la verità. Guarda, naturalmente se fossi stata una parlamentare del PD avrei votato la fiducia a Renzi. Con molti mal di pancia, diciamo. Insomma, sarei stata tra quelli che un po' hanno sofferto. Ce ne sono stati ieri di parlamentari che molti, quanti? Molti più? Molti, secondo te? Qualcuno me l'ha detto, poi magari qualcuno non lo so, qualcuno c'è stato. Qualcuno, diciamo un numero piuttosto... Cioè, secondo te, tra quelli che hanno dato la fiducia ci sono un 50% di malpancisti, di gente ma non lo so quantificare, perché sai, poi veramente i deputati del PD sono una marea, sono tantissimi, sono tanti, quindi sì, io non li conosco tutti, troppi pure sono, ma pure troppi, pure troppi, pure troppi. Senti una cosa, ma ti ha sorpreso questa nomina della signora Madia, con cui hai avuto varie discussioni, a ministro dei rapporti col Parlamento? È adatta a questo ruolo, secondo te, o no? Al ministro non della funzione pubblica, scusami. Non, guarda, se sia adatta o no, non mi sento di giudicarlo. Lei ha fatto la parlamentare occupandosi di lavoro e l'ha fatta bene, mi pare. Tant'è vero che io l'ho votata alle primarie. Addirittura? Sì, alle primarie dei parlamentari l'anno scorso ho votato per Marianna Madia e Stefano Fassina. Quindi ti ha un po' tradito, poi questo? Non ho avuto delle discussioni con lei, ho semplicemente scritto un articolo dove le chiedevo pubblicamente, da sua elettrice, appunto, sì, alle primarie, come mai avesse cambiato idea su alcune cose, in particolare su Renzi. Essendo proprio lei una impegnata sui temi del lavoro, mi sembrava che la piattaforma di Renzi fosse un po' diversa da quella di Bersani e appunto di Fassina. Vabbè, è salita sul carro pure lei, dai, su, diciamo. Lei non mi ha risposto, quindi ok, pazienza, è salita sul carro, diciamolo, dai. Non c'è stata nessuna discussione, però pensi che sia salita sul carro, ma d'altra parte penso che no, ma sai, io penso, in realtà io ho scritto a lei perché è la parlamentare che avevo votato io. Però scusami Chiara, tu hai letto i tweet che mandava per esempio il nuovo ministro degli esteri Mogherini solamente un anno fa? Io ho picchiato molto duro nei giorni scorsi. Infatti io volevo dire questo, ho scritto a lei perché io avevo votato lei e quindi mi sentivo, sì, una sua elettrice. Dopodiché, in generale, io penso che si possono fare tutte le scelte, si può anche cambiare idea, si può anche far cadere un governo che secondo te non funziona più, però bisogna spiegare alla gente quello che si fa. E invece? Capisci? E invece quando gli fai domande s'offendono, e allora vabbè, siamo buoni. E perché l'hanno fatto, secondo te? Per salvare la cadrega, o no? Magari perché hanno cambiato idea. Vabbè, non mi dai soddisfazione. È diventata buona. Ma no, ma figurati. No. Nessuno, il PD non è mica il Movimento 5 Stelle. La libertà di opinione. Però Letta è stato trattato un po'. Letta è stato un po' trattato da Renzi come Grillo tratta i suoi deputati, o no? Dimmi la verità. No, non è stato espulso, dai. Beh, però quasi, Beh, guarda che è stato clamorosa la cosa. Cioè, lui il giorno prima presenta un programma, il giorno dopo viene sostanzialmente espulso. Purtroppo, secondo me è stato trattato peggio. Purtroppo Letta non è stato trattato come Grillo tratta i suoi deputati. È stato trattato come spesso il PD tratta i suoi dirigenti. Come buttati via come pezze da piedi, perché questo è già successo, purtroppo, anche con Occhetto non era un dirigente successe anche con Occhetto, cara compagna. E io sono stato, tu sei sempre quello compagna, che citi Chiara, delle cose talmente vecchie che la gente le ha dimenticate, però ti devo dire, ma anche Fanfani domani. Appunto. Capito? Però parlavo della storia del PC PDS. Cioè, diciamo la verità: l'abbraccio che se c'è stato, l'abbraccio che c'è stato tra Letta e Bersani l'altro giorno. Non sì, devo dire la verità. Anche a me, che non sono un tifoso di nessuno dei due, è piaciuto. Io ero molto renziano prima. Devo dire che negli ultimi mesi, su alcune cose, mi sono un po' ricreduto. Allora, non ci sarebbe mai stato un abbraccio così con Renzi, impossibile. Beh, c'è stato un saluto con Renzi. Vabbè, ma insomma, sì, punto. Non era la stessa cosa. È un'altra cosa, dai, su. Ti è piaciuto, ti è piaciuto anche Letta con quella manina, no, che dava? A me è piaciuto molto, grande coerenza, grande nessuna ipocrisia, nessuna ipocrisia. Esatto, nessuna ipocrisia. Infatti io ho visto che qualcuno l'ha criticato, ah, ma non devi far vedere che rosichi. Ma invece sì, però perché invece no? Uno fa quello che si sente di fare, è inutile fare in scenario un teatrino. Sì, finto, in cui dici no, fai vedere che hai stima, invece lui ha detto no, io ti faccio vedere a tutti. Giù il modo come è stata condotta questa cosa dal gruppo dirigente del partito, dal segretario del partito, in effetti c'è qualche ragione. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Ricordiamo, cari amici, l'annuncio fatto dal deputato dei 5 Stelle Tacconi, eletto all'estero in Svizzera, qui alla Zanzara pochi istanti fa. Esco dal gruppo della Camera con altri 5 deputati. Sulle dimissioni da deputato ha detto ci stiamo pensando, ma la cosa che ha detto clamorosa David è un'altra: con questo voto si è dimostrato che non è possibile andare contro il parere di Casaleggio e Grillo, d'accordo, certo. Comandano loro, comanda Casaleggio, soprattutto Grillo il braccio e Casaleggio la mente. Ha detto un'altra cosa però: il sistema di voto è in mano alla Casaleggio Associati e ci dobbiamo fidare per forza, però se fosse affidato a terzi sarebbe più trasparente. Cioè, in sostanza ha detto che ci vuole un terzo, considerando Casaleggio sostanzialmente di parte, cioè una delle parti in causa, no? Cioè quello che vuole l'espulsione decide tecnicamente come avviene questa espulsione, cioè Casaleggio, e controlla tecnicamente la modalità di questa espulsione. Il software, il sistema. Dall'altra parte ci sono quelli che vengono espulsi. Lui ha detto: beh, tutto questo dovrebbe essere gestito da un terzo. Per me è pura follia il fatto che 23.000 persone, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. Daniela Santanchè, voglio far sentire a Chiara Geloni questa roba qui, perché è Daniela abbastanza significativa. Era tanto che non si evocava. No, ma come che evocava? È sempre dappertutto. No, ma qui, ma da noi, dico. Da noi è un po' di tempo. Ma non è che può venire un po' la mancanza. Non è che può venire sempre la Santanchè da noi, eh. Se non viene lei, ma non me la toccare, non me la toccare. Renzi è un mix di Mussolini e Grillo. Dobbiamo prendere atto che Renzi è un politico contemporaneo, secondo me è un misto tra Mussolini e Grillo. È un politico che ha capito che si deve parlare alla gente e non agli addetti ai lavori. Sono con Renzi. Noi oggi continuiamo a parlare di un contenitore, ma non parliamo di contenuti. Poi io sono con Renzi moltissimo sulla battaglia di tutte le battaglie. Voi del PD parlate dei grillini, ma avete mandato a casa Letta per molto meno, e su questo devo dire che in parte ha ragione. Ma loro hanno mandato a casa Letta per molto meno. Hanno licenziato Letta in una stanza del PD in 3 secondi. Ma scusate, ma io mi sembra di vedere. Un po' diverso, ma non però. Ma non c'entra il modo. Beh, certo, questa, quelli adesso vengono espulsi, Letta viene cacciato dalla presidenza del Consiglio. Ha sentito Geloni questo amore della Santanchè, ma in generale di Forza Italia con Renzi? Le fa un po' schifo tutto questo? L'avevo sentita quella lì di Mussolini e Grillo, l'ho sentita ieri sera, ma prima di andare a dormire. Ma ha ragione? Infatti, ha ragione, non, secondo non lei? Non ho dormito tanto bene. Ma perché il segretario del suo partito, perché ha ragione la Santanchè, secondo lei? Perché è il segretario del mio partito e quindi spero che la Santanchè non abbia ragione. Vabbè, secondo lei un po' ragione ha la Santanchè, dai, su, si sciolga su questo, no, no. No, no, no, no, non posso dirti che Renzi è un misto tra Mussolini e Grillo, spero che la Santanchè, come al solito, come le capita, insomma, abbia un po' esagerato. Ma la pugnalata che ha dato a Letta, come la definisce lei? Perché molti hanno definito Renzi una specie di canaro, anzi una persona, una giornalista, mi sembra, una definizione le sembra appropriata, il canaro, uno che mangia. Il canaro non fa parte del mio linguaggio, certo è stata una pugnalata, è stata una porcata. Sì, insomma, una cosa che non si fa in un partito. Ripeto, si può cambiare presidente del Consiglio. Io non sono di quelli che dicono no, devi essere eletto. Però non fino al giorno prima, dice peraltro, lei. Peraltro. l'altro Renzi diceva invece chi vince, chi sta governo, sta governo, governo 5 anni. Vabbè, comunque si può anche cambiare, ma non è che tu fino al giorno prima gli dici no, stai sereno, quelle robe lì, e poi invece lì insomma un po' c'ha ragione la Santa, che fai una riunione di partito e lo ribalti come un così, insomma, no. Questo non si fa, è una cosa che... Ma c'è da fidarsi che... adesso? Qualcuno ha detto, beh, se uno... perché Gaspare ha fatto una battuta fenomenale nei giorni scorsi, ha detto, incontri Renzi e ti dice come stai, e uno dice, te vai a fare un check-up subito, diciamo, no? No, il problema è se ti dice stai sereno, quello capisco che possa preoccupare tantissimo e possa indurre a gesti scaramantici, perché Ha ragione l'Osservatore Romano che nel definire tutto quello che è successo nei giorni scorsi un peccato originale? Definizione perfetta che solo l'Osservatore Romano può maneggiare con tanta autorevolezza. Effettivamente il governo Renzi nasce con un peccato. Senta, però mi dica la verità, la Madia è una raccomandata di ferro su, è una che è passata con nonchalance da Veltroni a Bersani a Renzi anche un po' D'Alema, con grandissima leggerezza, cioè alla fine chapeau, si potrebbe dire, no? Ma posso dire una cosa? Ma perché adesso l'unica che ha fatto così è la Madia? Ma ci sono un sacco di parlamentari del PD che hanno fatto la stessa cosa. Ma tantissimi, anche alcuni ministri hanno avuto percorsi analoghi, quindi adesso questa cosa di prendersela con la Madia... Sì. Beh, veramente una delle prime a prendersela è stata lei. Esatto, ma siccome sono stata io, perché l'avevo votata, avevo avuto fiducia in lei... A parlare di incoerenza, sì, di spiegazioni che doveva dare. Conto, come a me sembra che sia normale, un elettore chiede conto al suo deputato di delle scelte che fa, se non le capisce. L'ho fatto io per prima, dopodiché adesso non è neanche che si possa diventare il simbolo di tutti i mali della politica. Qualcuno dice che incinta, perché... qualcuno dice che incinta non può fare il ministro. Ma... Una porcata questa. Questo mi sembra veramente è una scelta sua che io non mi sento di in nessun modo di... Ha già un figlio, quindi saprà bene cosa significa diventare mamma. Ma quanto è di destra questo governo, secondo lei? Per la Guidi, per altre cose? C'è un po' di destra in questo governo? O no? Un po' di destra c'è, sì, c'è anche una ministra un po' berlusconiana, quindi insomma sono contenta che Renzi abbia recuperato abbia recuperato il rapporto con una parte della maggioranza che era uscita e invece adesso... Devo dire la verità, questa mattina ho sentito Luisella Costamagna dire una cosa corretta, ha detto ma scusate, ma è possibile, era Agorà, è possibile mai che Renzi, non ho capito chi è, che la Costamagna, era... ha detto una cosa non male, okay. Ha detto, ho letto da qualche parte che la Guidi sostiene di non aver mai parlato con Renzi. Ora, ma ragazzi, ma diciamo la verità, ma ci si aspettava altro, cioè non è che i ministri possono essere scelti sulla base del fatto che te lo dice qualcuno o per mettere la figurina, ma ci devi parlare con le persone, quello che in fondo diceva Barca in quella telefonata, cioè coi la nostra, ti ricordi la nostra telefonata, Parenzo? No, non mi ricordo niente. Parenzo, te lo ricordi o no? Memoria cortissima. Hai la memoria corta? Ha la memoria corta perché ha paura dell'ordine dei giornalisti. Mai vabbè, paura, mai mulare. Ecco, mai mulare, bravo, mai mulare e mai pentirsi di quello che uno fa, mai. Ma di che allora, cosa, dico una cosa, con i ministri, cioè è assurdo che uno venga reclutato senza nemmeno parlarci, questo o no? Certo, è chiaro. Ma credo che la Guidi conosca Graziano Del Rio per ragioni anche territoriali, quindi immagino che avrà parlato con lui. Certo che è vero che ci si aspettava altro, come dici tu, insomma, Renzi aveva dato l'idea con la Leopolda, con le varie Leopolde, di avere dietro di sé un pezzo d'Italia che stava lì e non vedeva l'ora di governare, cambiare la faccia a questo paese, un essere una squadra che cambiava. È così. E invece, insomma, questo governo non mi sembra un governo Leopolda, perché che governo è? Di quelle figure hanno detto di no alla richiesta di impegnarsi, perché sai, poi un conto è dirlo, un conto è farlo. È un po' il bomba Renzi, le spara grosse. E forse anche loro si aspettavano, anche questi qui della Leopolda si aspettavano che Renzi facesse un governo in condizioni diverse, cioè no, con Alfano e scelta civica, no? Insomma, era un altro, il percorso immaginato era un altro. È venuto fuori un governo molto politico, come ha detto Renzi, è molto, è che dipende un po' tutto da lui. Senti una cosa, ma Bersani può avere un ruolo? Bersani può avere un ruolo oppure è finito politicamente? Può avere ancora un ruolo? Che può fare Bersani, secondo te? Adesso non so cosa farò da grande io, figurati se so cosa farò da grande. Ma hai querelato Rondolino? Ci sto ancora pensando, credo di avere ancora un po' di tempo per decidere. No, ha detto, Fabrizio. Ma come povero Fabrizio? Ma ha detto una cosa incredibile. Ma ha chiesto scusa. Dai, vabbè, ma adesso. Poi. lascia stare. No, ma volevo sapere, volevo sapere, ha chiesto scusa pure o no? Mi sembra di sì. Ha chiesto scusa. Ah, meno male, non lo sapevo, ha chiesto scusa. No, no, bene. Però scusami, ti sembra normale, se voglio dire a te e alla signora Geloni, che il sito del movimento 5stelle.it che ha fatto? Non dica una parola su questi che sono stati cacciati dal movimento. Vabbè, ma lì decide ma tutto. Sembra di stare. Ma devi andare su beppegrillo.it. Ma devi andare su beppegrillo.it. Beppe Grillo. Si può chiamare Beppe, però. Dai, ma finiscila, che c'entra. Punto it. Tu vai sul sito e non trovi niente. La censura totale. Ma che censura totale? È il voto della rete. Ma dov'è? Ma non c'è niente. Ma quali espulsi? Non sono mai nati. Come mai nati? Sembra come quando dicevano al compagno Stalin: scusami, compagno Stalin, il compagno Gargan, dov'è? Compagno Gargan? Mai esistito? Come mai esistito? Ma ieri era lì vicino a te, compagno Gargan. Grazie, non grazie, c'è Chiara Geloni. Sul sito. Ciao, presto, grazie presto. A voi. Ciao. Allora, dove andiamo? Vittorio da Forlì, forza. Ecco, allora. Ma prima un inciso, io penso che una donna incinta faccia veramente molta fatica a lavorare, ma in politica può fare quello che vuole, non è un problema quello. Vabbè, però io volevo parlare di quel povero tassista. Allora? Perché è incredibile veramente che si debba morire per un diverbio in strada, in discoteca, al bar, allo stadio. Però mi sembra ancora più incredibile che un rissoso, un irascibile, uno che picchia duro, un violento che della violenza verbale costruisce una trasmissione sui suoi ospiti e ci campa pure, sia così ipocrita da fare questi discorsi qui. Vabbè, adesso ci penso a lei, perché ha detto una serie di stronzate inaudite. Un attimo, Vittorio. Adesso torno da lei, perché dopo questa sequela di puttanate pazzesche che lei ha detto, bisogna intervenire. Un attimo. Niente, non si riesce a parlare con questo. Guarda, intanto incredibile. Anche sul sito blog di Beppe Grillo, confermo, non c'è una riga. Ah, ragazzi, io non riesco a capire, veramente una cosa pazzesca. Movimento. Non si riesce a contattare questa persona. Non so. Vittorio, non ho capito qual è il collegamento. Scusi, siccome secondo lei io utilizzo violenza verbale. Tu l'hai anche dichiarato, Parenzo, che sei lì. Quante volte Crociani ha detto che Crucio. Lui è un violento e vuole la violenza? Ma quale violenza? Preferisce la violenza in strada. Ma io ci sono tonnellate di trasmissioni. Ma che sta dicendo? Io sono il massimo del pacifismo, imbecille. Questo è il Vittorio, io sono un pacifista. Violenza pura. Ma quale violenza? Ma stia zitto che sono un pacifista pazzesco, io non dica stupidaggini. E poi certo, sempre stupidaggini. Tu Vittorio, sei a delirio, la violenza la fai tu. Verbale, ma che c'entra? Ma la violenza verbale è mio business. Quindi, vabbè. Fatti un esame di coscienza. Ma che c'entra questo con i tassisti? Sei identico a quello che ha ucciso il tassista. Vabbè, ma tu sei malato di mente, tu sei un pazzo. Tu sei un malato di mente, un pazzo. Tu sei un pazzo, hai capito? Sei un pazzo. Sei un pazzo furioso. Sei un pazzo furioso. Sei un pazzo furioso che va internato al più presto. Passa a prendere una medicina, va. Questo. Ma quale guadagniamo? Fatti esame di coscienza. Sì, l'esame di coscienza per il tassista. Ma qualcosa sei il coraggio. Ma dillo che dice? Tu. Ma cosa che vuoi che dica? Dico semplicemente che ci vediamo in corsia. Cosa vuoi che ti dica? Ci vediamo in corsia. In corsia ci vediamo. Sì, in corsia di un ospedale ben specializzato. Vedi tu, 2 minuti fa hai detto io picchio duro. Ma che c'è tra picchio duro dal punto di vista dialettico, amico mio? Ripassa. Ripassa. Mio. Dialettico. Tu con la dialettica fai esattamente la stessa cosa che i poveretti in strada fanno coi pugni. Sì. Quindi la stessa cosa. Va bene. Ricordatelo. Va bene, ma sei non capisci la differenza no, tra tu sei un ipocrita. Sì, sono un ipocrita. Grandissimo ipocrita. Va bene, bravo, hai fatto la tua intemerata, la tua uscita serale, adesso torni a casa tranquilla, visto che bravo che sono stato, perché ho detto a Cruciani che lui è violento verbalmente, dunque non si può stupire se uno picchia un tassista. Bravo Vittorio, così tua moglie ti dà. Devo dirti che adesso fra un po' mi chiameranno in tanti dicendo bravo, gliene detto. Bravo Vittorio, adesso poi torni alla tua fidanzata, alla tua moglie, alla tua compagna, dai un bacetto. No, io sto andando a lavorare, caro mio, tu invece vai a casa e ti fai una puttana. Ciao. Beh, guarda. Guarda, sarei tentato di dirti questo, vado alla gabbia da paragone in realtà, a lavorare anch'io. Per cui, alla gabbia, ecco, per cui stai giusto, zitto. Per cui, posto giusto. Sì, posto giusto, infatti, posto giusto. Ma tu, andate, dopo riguardatela la gabbia con Paragone e, sì, cerca di capire, sì, che differenza non c'è, sì, tra te e quel tipo lì. Vabbè, ma sei talmente sei talmente, come dire, sei un ipocrita, Cruciani. Ma perché cosa? Tu adesso ti stai scandalizzando, sì, perché la gente dice che è una cosa normale. Ma che cosa? Ma abbi pazienza, Vittorio, quello ha tirato una bottiglia, ha tirato una bottigliata, ha tirato una bottiglia, ha tirato una bottigliata in faccia a uno, hai capito? Quattro poliziotti uccidono un ragazzo manganellato. Ma cosa c'entra? Questo non è normale. Mamma mia. Mentre invece se io ti tiro un pugno e tu cadi per terra, sì, e sbatti la testa del marciapiede, non è un omicidio volontario, è colposo. Come 3600 persone che muoiono perché vengono investite da incidenti. Eccola stradali. Qua, eccola. Cerca qua, di capire la differenza. È arrivata, l'abbiamo trovata finalmente. Cerca di capire la differenza. Forlì. La cosa più scandalosa sei tu. Forlì. Tutta la tua ipocrisia. Forlì, mi raccomando. Subito, ultima chiamata. Ultima chiamata della serata. Forlì, dirigersi a Forlì. Subito, grazie. Eccoci qui. Quando non sai cosa dire, tiri fuori la sirena. Tutte le autovetture, grazie. Tutte le autovetture. No, una ne basta, una tutte però con due. Autovetture, grazie. Puntura bella tosta, A domani 18:30. No, so quello vero questa volta. Ma ve lo giuro, guardate. Su voi due lo giuro, guardate. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non è vero niente. Radio 24. La passione si sente.